anche con il settore pesca dei Ferito, la sagra del pesce azzurro che si farà questa sera, domenica sera intendo, perché questa trasmissione viene replicata anche lunedì, la domenica a partire dalle 19 ci sarà questa sagra del pesce azzurro, e questa volta non è sul via Carlo Ortolani di Bordonaro, ma è in piazza Cristoforo Colombo. Bene, ecco, e riprendiamo con il commissario Roberto Pecoraro. Le dicevo che stamattina sentivo il rombo dei motori dei Canadair, che, e poi li ho visti che planavano sul mare di fronte finale per prendere l'acqua del mare e andarla a riversare sui Nebrodi, dove ancora c'è il fuoco. E il comandante Pecoraro è stato sulla breccia per molti giorni assieme ai suoi agenti della forestale per arginare questo oceano di fuoco che si sprigionava nelle nostre campagne e che io considero veramente degli angeli dei boschi, delle campagne, per l'attività che svolgono in favore di questa nostra comunità. Lì ci sono ancora i fuochi e da noi, nelle nostre zone delle Madonie, come siamo combinati, comandante? Ma per fortuna, per intanto tocca doverosamente ringraziarla perché mi dà la possibilità, a differenza di qualche altro giornale locale, di dire la mia, di chiarire eventualmente e soprattutto di portare la parola del Corpo Forestale, perché mi sembra, chiedo scusa ai telespettatori perché ho una voce proprio ai limiti del è il caldo della... Noi vediamo intanto scorrere, ecco, sul computer voi lo vedete le fiamme, sì, ci sono state nel nostro territorio, vedete le case allo stato attuale, sì. Allo stato attuale la situazione è già sotto controllo almeno da 3 giorni. Il problema, come ho come dirò poi in spero di avere questa possibilità di chiarire anche questo aspetto della questione, ci sono una serie di riprese, perché dovete pensare che il fuoco è partito in località Lanzeria, significa che siamo ai confini, nel territorio di Cefalù, ai confini del territorio di Isnello e Collesano, per cui ha attraversato tutta la località Lanzeria, parte di Gurgo, Radica, Valle del Gatto, praticamente Pizzo, Sant'Angelo, alcune parti di Gibilman, poi Carbonara, poi Piano Pero, poi parte di Caprioli e poi dall'altra parte Allegracuore. È praticamente la cosa, diciamo, più grave, la zona di Ferla, dove c'è una situazione abbastanza antropizzata, ci sono molti abitazioni, non solo stagionali ma anche di civile abitazione, per cui la situazione là è stata veramente veramente tragica. Per potete cui vorrei vedere intanto sui computer, ecco, gli scheletri degli alberi che vediamo in zona di Carbonara, dove addirittura i ripetitori della nostra emittente, ma anche sono andati a fuoco sicuramente, completamente. E si deve anche alla capacità di Angelo Arduino di arginare subito il problema e di farlo attivare nel giro di un giorno. I tecnici sono andati a Carbonara, hanno rimesso tutto, addirittura il caravan che aveva Angelo Arduino è stato pure a fuoco. Intanto lo vedete che lui li manda già, esatto. I ripetitori che sono bruciati completamente, ma non soltanto di CRM, ma anche della RAI e di altri emittenti che avevano questi ripetitori proprio a Carbonara. Ecco, cosa è rimasto? Lo scheletro addirittura della roulotte, i fili che via via ci sono e che sono andati a fuoco. È stato veramente un disastro anche per i ripetitori delle varie radio che vi sono posizionati e principalmente per una radio come CRM. La roulotte, vedete cosa visto, è rimasto. Visto, conosco bene la situazione. È rimasto veramente pochissimo, niente, addirittura accanto agli scheletri degli alberi che ci sono. Ma comandante, ecco, parlavamo di questi incendi che hanno avviluppato buona parte del nostro territorio. E della provincia e della Sicilia, vorrei ricordare, del meridione, perché guardate che il problema non riguarda il territorio di Cefalù, perché dobbiamo sapere, io come ho detto a qualcuno, si è interrotto forse un sogno con quest'incubo uguale e tale a quello del 2007, perché stavamo viaggiando in maniera veramente esemplare nella provincia e nella regione. Noi, il territorio di Cefalù è stato interessato da un incendio, e le qualità, diciamo in maniera particolare, è stato solo interessato dall'incendio di Sant'Elia e località limitrofe, dove ci sono state pure, dove c'era un'abitazione private e che ha portato un certo panico e una certa preoccupazione. Dopodiché non abbiamo avuto nient'altro, tranne qualche breve e brevissima. Io addirittura ho fatto, mi è stato chiesto una riflessione a fine agosto ed ero felicissimo di ritrovare questa situazione. Ho dato applauso alla sensibilità dei cefaludesi che hanno, e poi vorrei parlarne, ma il discorso è molto ampio, ma vorrei fare capire che questo discorso è legato, la prevenzione è legata agli incendi in maniera indissolubile, perché non basta parlare di caccia agli incendiari. Il problema degli incendi è un problema culturale, lo dobbiamo capire questa cosa. Certo. E dobbiamo lavorare perché la gente capisca il danno che ne viene fuori, certo. Esatto. E noi il nostro incontro che avevamo avuto a Colombo, in località Colombo, avevamo commentato che quest'anno gli incendi erano stati contenuti e proprio si contavano sulle dita della mano, grazie a un'opera di prevenzione fatta dalle forze dell'ordine e in sicuramente primis, la prevenzione che riguardava soprattutto, certo, il regolamento sui fuochi in agricoltura, che oggi cambierà, sta per cambiare, non so a che punto è la situazione, spero, anche perché sì, col nostro contributo abbiamo dato anche idee su come aumentare anche le sanzioni amministrative, dare strumenti più efficaci alle forze di polizia che lavorano sì, su loro. Io dico che i piromani hanno scelto i piromani, certamente, è chiaro, quando è chiaro, l'incendio non poteva essere arginato facilmente, è chiaro, per dare fuoco come fanno sempre, io l'ho seguito da tempo, è anche chiaro, sul giornale allora e questi incendi erano sempre ciclici, esatto, si verificavano ancora peggio, ripeto, oggi è ancora peggio, perché la situazione dell'abbandono delle terre consente all'incendio di avere alimenti per poter camminare. Però quando siamo in condizioni poi di temperature, di condizioni ecologiche, diciamo, e anche di temperature favorevoli allo sviluppo dell'incendio, è chiaro che non c'è canavere che tenga. Questa cosa, certo, poi la vogliamo, visto, la ribadiremo ancora più là. Ma anche perché lei parlava poco fa che d'abbandono delle campagne non c'è la coscienza di pulirli, però c'è anche un'altra cosa, che il proprietario di un terreno si trova davanti ad una legge del dicembre 2010 che gli impedisce, esatto, di bruciare le potature che vengono dagli alberi, esatto, e che non provocherebbero nessun danno nel periodo invernale, quando si potrebbe sicuramente fare. Invece lo Stato, io credo che ha favorito questi incendi attraverso una legge strampalata che non ha né capo né coda, che vieta nel periodo invernale di bruciare poche ristoppie, le do una notizia, qua c'è l'avvocato Vito Punzi, ma le do una notizia che può riguardarlo, nel senso che con Massimo abbiamo elaborato 15 giorni fa una proposta di modifica a questa legge, speriamo che possa andare in porto e consentire anche l'abbruciamento delle ristocche. Certo, per cui siamo in attesa anche di questa. È stata fatta per i latifondi enorme, ma non certamente. Per qui c'è la polverizzazione della proprietà. Ognuno che ha 1.000 metri, 2.000 metri di terreno non si può prendere un apparecchio che costa un sacco di soldi per citare magari l'albero, gli esami di albero. Certamente, certamente. Certamente, su questo siamo, concordiamo da sempre sì. Professor Lombardo, questo io sono molto vicino alle esigenze dell'agricoltura, delle persone, ma di tutti, perché è impossibile, specie quando ci sono zone impervie difficili da raggiungere, anche con i mezzi meccanici, o ci sono zone impervie, è impossibile andare a triturare. Allora è necessario consentire, nei periodi stabiliti dalla vecchia normativa, la possibilità di bruciare e di eventualmente poi espandere la cenere come si faceva una volta. Mi consenta, comandante, di salutare intanto Piero Vazzana, che cura la cronoscalata auto storiche Cefalugi Bilmanna, e che è in programma il 6 e il 7 di ottobre, e ne parleremo tra poco. E, riprendendo questo discorso, comandante, ci sono state un po' di polemiche anche in questo, negli interventi, ma io vi ho visto sempre presenti un pochettino, man mano che girava, e ho visto che la presenza della forestale, ma non soltanto, dei carabinieri, della finanza, della polizia, un po' era molto molto nel cercare quantomeno di salvaguardare le case, che era la cosa. Mi rendo conto che era difficile andare contro quel fuoco con uno scirocco che soffiava e faceva arrivare le fiamme da un albero all'altro, ma la vostra presenza io l'ho avvertita. È sempre, è utile anche. Professor Lombardo, io la ringrazio di questa testimonianza che sta dando, insieme alla testimonianza di tanti altri cittadini. La faccio solo per capire un brevissimo esempio. Io sono stato fermato in località Lanzeria da un noto avvocato di Castelbuono, e mi ha detto: fermatevi, che c'è? Io pensavo che ci fosse un altro incendio. Fermatevi, comandante, la devo ringraziare a nome di mio padre per avere fatto quello che avete fatto, non si preoccupi. Cioè, di queste testimonianze, per la verità, ne abbiamo avute tantissime, e giornalmente. E questo è importante. Questa è la cosa che più ci consola. Invece le istituzioni, da questo punto di vista, e soprattutto con l'amministrazione comunale, con il sindaco Lapunza, c'è stata qualche incomprensione che secondo me man mano si scioglierà. Ma con l'occasione lei mi dà l'opportunità, come dire, di dire le cose francamente, come sono abituato a fare io, e rispettosamente, perché credo di essere un uomo delle istituzioni. Siamo rammaricati ed offesi per le parole ingenerose utilizzate dal sindaco all'indomani dell'incendio del 26. Soprattutto nell'intervista rilasciata all'intervista video per le televisioni nazionali. E su questa, nonostante, dico io, avessi chiarito la mattina stessa al sindaco, perché siamo stati in diretta comunicazione, la situazione, la forza dell'impiego, la forza reale, quella che abbiamo. Vorrei ricordare che noi siamo sottodimensionati del 40%. Noi, il nostro distaccamento dovrebbe essere 14 più 2 ufficiali, e siamo 6 attualmente, perché 2 sono in ferie. Ecco, questa è la situazione del distaccamento di ma nonostante tutto, avessi io dato chiaramente la situazione, mi sono sentito questa intervista dove il sindaco affermava: c'è stato un fronte fuoco questa notte di oltre 5 chilometri, ho visto pochi uomini della forestale, devo dire, poco coordinamento da parte della forestale, e purtroppo poco coordinamento di questi mezzi aerei che, quando servono in situazioni come questa, poi vengono mandate per cambio di pilota, eccetera eccetera. E solo nella giornata di ieri, ieri abbiamo potuto notare alcune dichiarazioni di segno diverso, per la prima volta, del sindaco, che poi ne parliamo. In un articolo apparso su Cefalù News si legge che tra gli altri c'era pure le guardie forestali e gli operai a, a spegnere l'incendio. Vorrei chiedere ai cittadini, che sono sicuramente più informati, ma di solito chi spegne gli incendi a Cefalù? È da giovedì 27, e non so per quale motivo, forse è il caso di dirlo, qualcuno cerca di buttare benzina sul fuoco, e non solo da parte del sindaco. Dicevo, sono un uomo delle istituzioni, non voglio fare polemica perché non mi interessa. Per me depone la mia storia personale, sia come uomo che come impiegato del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Tutti conoscono la mia la nostra dedizione al lavoro, perché voi tutti conoscete i componenti del distaccamento. Ma per amore della verità e per difendere la dignità lavorativa dei miei collaboratori e degli operatori delle squadre antincendio, che da settimana, che da una settimana, di giorno e di notte masticano fumo e rischiano la vita, non posso tacere, né posso tollerare che il Corpo Forestale della Regione Siciliana, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo e il Distaccamento Forestale di Lascari diventino il capro espiatorio del primo cittadino. Già con l'incendio dell'agosto 2007, ricordo, è durato tre giorni, dal 21 al 23 agosto. Ed è stato anche quello colossale, terribile. Esatto, ricordo, forse più terribile di quello di quest'anno. Sicuramente, sicuramente. L'allora sindaco, mi dispiace dirlo, ha cercato di realizzare la stessa operazione. Ma allora, come adesso, cercherò di chiarire alcuni aspetti che riguardano l'organizzazione alla lotta degli incendi boschivi, per evitare continue e future speculazioni, spesso dettate dalla scarsa conoscenza del fenomeno, che possono nuocere queste cose non solo ai cittadini indirettamente, ma soprattutto agli operatori. Vorrei permettermi rispettosamente una battuta, se mi è concesso. Non basta essere eletto sindaco per diventare specialista della lotta agli incendi boschivi. Capisco la frustrazione all'indomani dello scoppio dell'incendio, che ha dato la stura a una serie di dichiarazioni e scritti, secondo il mio punto di vista, avventati. Ma se può essere consolatorio, vorrei dire al sindaco che noi operatori proviamo prima di lui e in maniera più pesante lo stesso sentimento ogni volta che, per un motivo o per altro, e non solo per mancanza del Canadair, non riusciamo a chiudere un incendio. Mi auguro di cuore che questi sentimenti restino il più lontano possibile dal nostro animo. Ma l'esperienza mi dice che non sarà facile, perché durante il nostro difficile, faticoso e rischioso lavoro le incognite sono tantissime. Vorrei dire inoltre che si tende anche attraverso, e questo me ne dispiace, attraverso la stampa locale, di dare adito a, ad animare un certo dibattito sbagliato che esiste sul problema della prevenzione degli incendi. Diceva il sindaco che, e qua concordiamo sul fatto che il Canadair se n'è andato, la stessa frustrazione l'abbiamo provata noi, ma diceva il sindaco che è evidente, tutto questo è una cosa intollerabile, come intollerabile questa azione di coordinamento dei veicoli, che a mio avviso deve essere meglio coordinata e meglio fatta presente sul territorio. Ben venga. Io non so a quale responsabilità si riferisce il sindaco. Lui dice che è il COR. Io non ho elementi per poter dire questo. Noi, la radio comunque è a disposizione. Quando vuole il sindaco può intervenire. Io spero che in futuro avremo possibilità pure di parlarne, sicuramente. Io non so se il sindaco, dico, ha possibilità di avere cognizione delle responsabilità del COR, per esempio, che è, per quelli che non praticano questo mestiere, è il centro operativo regionale che si occupa di dislocare i velivoli, e quando parlo di dislocare i velivoli parlo di dislocare i velivoli della Protezione Civile Nazionale nel territorio regionale, perché poi c'è il COAU di Roma che manda gli aerei, non è neanche il COR. se ha, come dire, elementi per poter evidenziare, stigmatizzare una serie di responsabilità, che lo faccia. Io sono pure contento. Certo. Ma non dobbiamo dire che bastava quell'aereo a risolvere il problema. Per esperienza posso dire che non è così. Quel solo Canadair il giorno 26 a Lanzeria non bastava a chiudere l'incendio, non bastava, addirittura lui sostiene che bastavano 10-15 lanci. Tra l'altro non era neanche presente anche sul punto fuoco. E poi, è chiaro che ci siamo sentiti in mattinata, io ho sempre relazionato, ho informato l'attività della nostra situazione. Ma certamente per esperienza devo dire che in quelle condizioni meteorologiche significa scirocco e libeccio e temperature intorno ai 35 gradi, quel Canadair, posso assicurare, non poteva risolvere l'incendio. Semmai potevamo ritardare i danni, potevamo limitare i danni. E poi naturalmente l'indomani, perché voi capite benissimo, durante la notte è impossibile lavorare. Certo. Perché ci sono condizioni proprio orografiche, condizioni di luminosità che non consentono agli operai di poterle mandare allo sbaraglio. È chiaro che se ci sono situazioni di protezione civile... E diventa pericoloso di notte, tra l'altro. Se ci sono situazioni di protezione civile, noi siamo a presidiare, ma vorrei ricordare che non siamo l'esercito. Ho detto che siamo sei in servizio noi, abbiamo le squadre, ma il sindaco stesso dice che c'è un fronte di 5 chilometri di fiamma. Come si fa a fermare 5 chilometri di fiamma, dico io? Noi, ripeto, il sindaco sostiene che non ci ha visti, io gli ho spiegato dove eravamo, noi eravamo dall'altra parte, io non c'ero perché sono andato a riposare, perché giustamente, e ho fatto chiamare. Perché l'ispettore ripartimentale delle foreste, il dottore Marino, è stato con noi vicinissimo, mi ha mandato in sostituzione al mio personale, perché vorrei ricordare che il mio personale ha fatto il doppio dei turni, cosa che legalmente è un po' rischioso, perché voi sapete che cosa significa fare già sei ore a contatto con il fuoco. Significa avere spirito di sacrificio. E allora io mi sono fatto mandare due pattuglie la sera, una fino a mezzanotte, e da mezzanotte, cose che posso certificare e documentare, e da mezzanotte fino alle 6 ci sono state altre pattuglie che poi noi siamo andati a rilevare. Certo. E questa è la situazione. Certo. Quando lei dica quello, ma un'altra cosa devo dire, perché per me è importantissimo. Prego, professore. No, io volevo, per chiudere un po' questo discorso, chiederle intanto, voi avete fatto super giù una sommatoria dei danni di quanti ettari di terreno all'incirca sono stati interessati dagli incendi, ecco, da questo incendio, perché ecco qua, no, c'è un altro, questo, qua c'è un altro 2007, equivoco, no 2007, professore, mi ascolti, qua c'è un altro equivoco che dobbiamo chiarire, un altro prego. Credo che ci sia qualcuno al telefono. Pronto? Un minuto. Dobbiamo chiarire un altro equivoco alimentato anche da cattiva informazione. L'incendio è unico, ribadisco, l'incendio è unico. Le condizioni meteorologiche, la difficoltà di spegnimento, ma soprattutto le condizioni meteorologiche determinano condizioni di diverse riprese, perché l'incendio di Scirocco è un incendio che colpisce il territorio a macchia di leopardo, perché salta da un punto a un altro, sì, non c'è dubbio, perché così vento alimenta la situazione, che salta da un punto e i piromani per questo scelgono, ecco, no, voglio dire, stiamo attenti a questa cosa. Il riaccendersi dei fuochi incontrati a Lega Cuore non corrisponde alla volontà del piromane, ma soprattutto a una impossibilità di fare un lavoro chirurgico di spegnimento, perché ripeto, ci vuole l'esercito, ci sono centinaia di uomini per fare. Lei mi chiedeva dei danni, io ritengo ancora non abbiamo stimato i danni e neanche le superfici, perché voglio dire, ancora l'incendio è in atto, cioè siamo in allarme, noi presidiamo 24 ore su 24 sia la zona di Ferla dall'altra parte che la zona di Allegracore che Lanzeria, cioè siamo sempre in attività. In questo caso c'è anche prevenzione. Materialmente no, no per questo incendio, materialmente l'incendio non è spento, vorrei dire questo, certo. Non possiamo alimentare l'idea che ci sono ancora piromani che vanno là, non è così. Non possiamo dire queste cose. Certo, diciamo che... E la cosa che a me fa un po' rabbia è il fatto che nessuno si degna di venire dal responsabile del distaccamento e dire ma che ne pensa di questa cosa? Certo. Questa è la cosa che a me fa andare in mente. Abbiamo sentito la sua accorata, veramente accorata, difesa di una persona che ha lottato sul campo, in prima linea, nelle barricate, per cercare di limitare questi danni per la comunità e io credo che tutti dobbiamo essere grati a voi della Forestale, ma grati ai carabinieri, grati alla polizia, grati alle finanze, grati ai vigili urbani civile. Che intervengono. Noi abbiamo lavorato alla grande negli anni passati, a prescindere dal sindaco Lapuzina, con la protezione civile, abbiamo avuto rapporti di grandissima collaborazione e di stima reciproca. Certo, diciamo, non veniamo dal nulla, abbiamo una storia. Un ringraziamento va anche ai vigili del fuoco. Ma ci mancherebbe, ma tutti. Ma io dico, a tutti si ringraziano tranne a chi spegne l'incendio. Ma è possibile questa cosa? Ma è umana questa cosa? Non c'è dubbio. Ha le sue ragioni, il suo accorato. Ah, credo che c'è in linea c'è il sindaco Lapuzina. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Lei avrà sentito. No, io non ho sentito il commissario Pecoraro, sì. Però mi hanno riferito alcuni che mi hanno telefonato delle sue farneticazioni che ha detto alla radio. Questo commissario che risponderà delle sue dichiarazioni in altre sedi, perché sicuramente le risponderà, è stato tutto il tempo dell'incendio una persona irriguardosa nei confronti del sindaco. Lui dovrebbe ricordare che quel giorno che è scoppiato l'incendio, alle ore 16 qualche cosa, se n'è andato a casa per fine turno, lasciando l'incendio. Non solo, chiamato dal sottoscritto, ha detto che il cane era andato via perché aveva finito le ore. Le dico anche altresì che il commissario Pecoraro sarà oggetto di mia richiesta specifica al direttore generale per rispondere della sua mancato coordinamento la prima sera dell'incendio, perché andandosene a casa per fine turno, come se lui fosse un operaio di una squadra, si è assunto una responsabilità enorme, la stessa responsabilità che lo ha portato quest'anno a fare dichiarazioni nel mese di luglio, che gli incendi a Cefalù, luglio-agosto, prima di agosto penso, che gli incendi a Cefalù erano ormai risolti grazie al fatto che lui si era occupato della vicenda. Il commissario Pecoraro, inoltre, per quello che mi hanno riferito, dice il falso quando dice che l'incendio non poteva essere domato dal Canader, perché il geometra genovese, che sarà chiamato da me a testimoniare in tutte le sedi e che era sul luogo, mi ha detto che già con alcuni lanci fatti dal Canader l'incendio era quasi domato, e quando il Canader è andato via nel momento in cui l'incendio ancora poteva essere tranquillamente domato. Dunque il commissario Pecoraro, che parla di cose che non sa, era perfettamente a casa dalle ore 16.30 in poi e non conosce nulla dell'incendio, perché non è stato sui luoghi, è stato a casa tutto il pomeriggio, tutta la serata, fino a quando è arrivato lì la mattina alle 7.30 e ha trovato la situazione che ha trovato dopo un incendio doloso. Dunque ha un atteggiamento che è un atteggiamento veramente farneticante di una persona che non ha riguardo a chi è l'ufficiale di governo, che sono io, che sono il rappresentante del Presidente della Repubblica in terra di Cefalù, e sta tenendo un atteggiamento da persona che non è in grado di svolgere il servizio che sta svolgendo. Non è persona che ha a cuore le sorti di quelle che sono le vicende che riguardano proprio il controllo del territorio. Secondo me è persona che non ha completamente cognizione di come sono andate le cose, in considerazione del fatto che è andato a casa. Ecco, pronto? Sì, sì, pronto, sindaco. Mi metto in contatto con questo commissario, mi smentisca il commissario che si permette di dire alla radio senza che ci sia il sindaco, cose che non ha, che non conosce. Si deve vergognare. La parola non esasperiamo il discorso, sindaco. Non esasperiamo il discorso. Prego, la parola al commissario Pecoraro. Di fare accuse nei confronti del sindaco che è stato per 48 ore senza chiudere occhio sul fuoco mentre lui era tranquillamente a casa. Questa è una persona incompetente. Posso parlare? Va bene, sindaco, se ha concluso il suo intervento. Posso parlare? La replica del commissario Pecoraro. Mi faccia smentire dal commissario di quello che ho detto. Sindaco, lo faccia parlare. Certo che sono. Io era dalle 6 di mattina che stavo lavorando. Ho fatto dalle 14 alle 17. Ci sono gli altri. Ma mi fa parlare, sindaco, per favore. Lei risponderà di queste dichiarazioni che ha fatto oggi alla radio. Certo. In tutte le sedi. Va bene, sindaco, va bene, sindaco, va bene. Sì, intanto facciamolo parlare, sindaco. Intanto mi faccia parlare. Allora, io ho fatto il mio servizio e più sono rimasto fino alle ore 17 sull'incendio. Aspetti, lei mi ha chiamato a casa, ma mi faccia finire, sindaco, per favore, mi faccia finire. Allora, naturalmente, quando io sono andato a casa, non solo perché ho finito il turno, ma perché avevo già fatto 4 ore di straordinario, è venuta la pattuglia, mi faccia finire, è venuta la pattuglia montante, io ho dato le consegne alla pattuglia montante, è normale, non posso fare 24 ore, anche perché dal punto di vista psicofisico combattere il fuoco per 10 ore di fila è già qualcosa, come dire, di altamente rischioso. Io non posso neanche... Mi vuole rispondere alla domanda che le faccio io? Come si è permesso di dire che io ho fatto un'operazione come quella del 2007 di Pippo Guerzo, dopo che sono stato 48 ore sul fuoco, di cui lei non conosce nulla di quel fuoco, di cui lei non conosce l'allarme che io ho lanciato? Guardi, come fa a dire che non conosco nulla di quel che io sono stato... Mi aspetti, ma mi faccia finire, ma che significa sono andato a casa? Ho lasciato la pattuglia, ho lasciato le consegne, un dosso smonta e un altro dosso. Mi scusi, sindaco. Lei mi deve dire se ha risposto al sindaco il primo giorno nel dire che il cane è andato via per fine turno, dica questo. Cosa? Non ho capito. Lei rispondendo al sindaco che chiedeva notizie del cane... Sì, io sono stato concorde con lei, l'ho ribadito qua stamattina, siamo d'accordo sul fatto che il Canader è andato via. Ha detto o non ha detto che è andato via per fine turno? Sì, così mi hanno riferito, certo. Perfetto, siccome io farò domani mattina, sì, e sono già stato sentito dai carabinieri di Cefalù, e farò domani mattina una denuncia alla Procura della Repubblica, perché Cefalù è stato lasciato all'abbandono, anziché fare 2 ore in più di straordinario, lei non può permettersi di dire che il Canner, se rimaneva l'incendio, non veniva bloccato. Non ho detto questo, io ho detto semplicemente, no, non è semplice dire che il Canner avrebbe risolto il problema, stando alle condizioni, perché io ero là a fare il DOS, nonno, lei non c'era, e neanche Genovese. Lei non c'era, il DOS che se ne va alle 4:30 a casa. Non ci siamo capiti, io non posso fare il DOS per tutta la giornata. Ci sono problemi di ordine psicofisico. Il sindaco di incompetenza risponderà di questo in tutte le sedi. Va bene. È stata la persona che quest'anno, da incompetente, nel mese di agosto ha detto che i problemi del fuoco erano risolti, non sapendo nemmeno che cosa significa fare dichiarazioni di questo tipo. Si metta al lavoro per fare pulire i terreni, commissario, faccia il suo servizio, faccia il suo lavoro, si occupi delle cose che si deve occupare. Non vada alle dichiarazioni dei giornali, non raccolga le mie dichiarazioni, faccia quello che è il suo dovere, quello che io chiederò alla regione, affinché lei, se è competente, deve fare pulire i terreni alle persone, se no lei non è nel posto giusto. E non bastano le lauree per fare il commissario della forestale. Ci vuole competenza, e la competenza lei non la... Posso parlare, sindaco? Lei alle 4:30 il fuoco non doveva lasciarlo, lei doveva essere persona responsabile. Io sono stato 48 ore sul fuoco. Ma lei non ma può... lei Signor Sindaco, con tutto il rispetto, lei ha una funzione, io ne ho un'altra. Io sono stata in trincea sul fuoco, ha capito la differenza? Lei mi ha giudicato incompetente stamattina e deve chiedermi scusa pubblicamente. No, è lei che deve chiedere scusa al Corpo Forestale. Lei non si è... il corpo forestale non è stato coordinato, è stato lasciato là sopra al piano, ai campi di golf, mentre a Piano Pero e in tutte le altre zone dove i vigili del fuoco non volevano intervenire perché non era fuoco di interfaccia, il corpo forestale è arrivato molto in ritardo e lei questo non lo sa perché lei non c'era. No. Lei alle 4:30 è andato via. E io non ho sempre che... lei sa benissimo, fino a ieri sera mi ha telefonato alle 11 lei. Io ho sempre io il telefono aperto. Alle 11 ieri sera perché c'era un incendio. Appunto, questo sto dicendo. Appunto per questo dico, io sono stato sempre a disposizione, nonostante tutto ho dovuto lasciare il DOS, ma ce ne sono altri, non posso fare per 36 ore il DOS. Le dico l'ultima cosa, commissario, lei deve avere rispetto per il sindaco, perché il sindaco è la maggiore autorità che c'è nel territorio, lei è un commissario forestale, certamente. Certamente, io ho rispetto per il sindaco. Non si permetta mai più ad utilizzare termini come quelli che ha utilizzato ieri mattina dall'Allegro Cuore, dove ha detto che stava raccogliendo le mie dichiarazioni. Lei non è né un magistrato né un inquirente. Lei è una persona che deve stare a posto al suo servizio. Va bene, sindaco. Io se lei per ogni motivo fa una polemica assurda. Avete chiarito un po' per incompatibilità ambientale e andare via da Cefalù. Sindaco. Questo è quello che Sindaco, avete chiarito un po' le vostre posizioni e ognuno ha detto... Dica al commissario che la prossima volta sia sul fuoco, invece andarsene a casa per fine turno come se fosse un operaio forestale. Dica di essere responsabile del suo ruolo, lui è il comandante e non può andarsene a casa, non può farlo! Questa è omissione, se lo ricordi, commissario! Va bene, va bene. Avete chiarito un po' le vostre... diciamo posizione, le vostre verità. Tutti che questo commissario venga spostato per incompatibilità ambientale, questo è quello che deve essere fatto, altro che lauree, se ne può prendere 10 lauree. La saluto, arrivederla, e la prossima volta, giornalista, quando c'ha che vogliono accusare il sindaco in questo modo, dopo che il sindaco ha lavorato per 3 giorni di seguito, mi chiami alla radio che mi voglio confrontare con questi soggetti sprovveduti. Perché questo commissario è provveduto. Sì, intanto io chiarisco sindaco, questo discorso. Dire per favore al sindaco che non sapevo che c'era questa polemica. Il commissario superiore mi aveva chiesto se potevo invitare il sindaco. Io ho invitato, pronto. Chiedere scuse pubbliche. Perché questo che almeno lo può salvare, gli può salvare la faccia davanti a una cattiva figura che ha fatto oggi. Quella di andare a fare la prima donna alla radio senza sapere di cosa parla, perché lui non era sui luoghi. Lui non era sui luoghi. La notte dell'inferno è stata la prima notte e lui non era sui luoghi. Questo è quello che bisogna dire. Vabbè, è inutile ripetere... È inutile ripetere sempre le stesse cose, non serve assolutamente a niente. Io voglio aggiungere un'altra cosa, che l'ho chiamato in settimana e mi disse... Mario, tu mi pronto. Hai chiamato per altre cose, ti prego, non mi hai chiamato... Tu oggi, sapendo che c'era il commissario, si parlava di incendio e che davanti al fatto che il commissario si permette di offendere il sindaco, paragonandolo come se fosse un esibizionista... Scusa, chiudiamo questo discorso. Questo discorso è sufficientemente chiaro. Io voglio anche dirti che ti avevo invitato in radio per oggi, per domenica. Per oggi ti avevo invitato e mi hai detto che entro domani mattina ti farò sapere se potrò venire oppure no. Non mi hai chiamato. Questo intendo chiarirlo. A tutti Mario, gli effetti. Io sono stato 3 giorni sul fuoco, tu mi hai chiamato prima del fuoco. In ogni caso, tuo figlio ha assistito a parecchie operazioni che abbiamo fatto durante la notte. Tuo figlio è stato diverse volte sul fuoco. Domandagli durante la notte se ha visto mai il commissario Pecoraro. Domandi a qualcuno se durante le notti ha visto mai il commissario Pecoraro. Domandateglielo. Mentre c'è stato il fuoco le 2 notti che abbiamo fatto uscire tantissima gente da casa. Va bene, gliel'hai chiesto, senti Rosario, gliel'hai già chiesto tu. quindi è inutile ripetere sempre le stesse cose. Intanto chiudiamo qua. L'unica cosa che mi pento di non aver fatto una denuncia prima è che la farò ora la denuncia, perché c'è stato un mancato coordinamento e perché non c'è stata una sottovalutazione complessiva, perché il primo giorno il commissario Pecoraro, che attiva il COR regionale per gli aerei, doveva fare in quattro, doveva fare di tutto, anziché andarsene a casa, quello che ho fatto poi io. Vediamo se eccellenza il prefetto vorrà ascoltarmi per capire che cosa si è voluto mandare via. Sindaco, devo chiederti devo dirti un'altra cosa, perché io sono abituato a dire le cose come stanno. All'inizio di questa trasmissione il nostro editore Angelo Arduino ti ha chiamato per partecipare anche a questa trasmissione, nelle eventualità che ci fossero state delle polemiche e delle cose. Questo intendo chiarirlo per spirito di onestà. Ed era e un'altra cosa, lo puoi chiamare nel coso, puoi guardare nel che eri irraggiungibile nel telefonino. Comunque con ciò intendo chiudere questo discorso. Intendo chiudere, ognuno di voi ha dato le proprie posizioni ed è giusto che così sia. Tu eri a conoscenza che ieri mattina il commissario Pecoraro si permette, durante un'operazione di antincendio, di dire al sindaco, sto raccogliendo le sue dichiarazioni che sono gravi? Cioè lui si rivolge al sindaco dicendo che sta raccogliendo le dichiarazioni? Questo è un signore che veramente ha perso la testa. Senti, duro questa volta. Sindaco, per chiudere questo discorso, come vuoi che io abbia sentito questo discorso? Come vuoi? Cioè, attraverso una come avrei dovuto sentire questo discorso? Su tre giorni, domanda commissario, su tre giorni di fuoco quante volte è stato presente? È stato presente soltanto. Sì, ma non ripetiamo sempre le stesse cose. Devo tagliare. Ci sono i documenti che parlano. Poi ci saranno i documenti che parlano, che diranno quello che sono le situazioni. Per intanto io devo chiudere questo discorso, anche perché ho altri ospiti e pazientemente hanno atteso e mi scuso per questo. Intanto ti saluto, ti ringrazio comunque per la telefonata. Un'ultima battuta, abbi la decenza di chiedere scusa per tutti coloro che si sono impegnati durante la notte, non solo per il sindaco, ma per tutti coloro che, sostituendosi anche a lui che era assente, nelle due notti si sono impegnati. Lui deve chiedere scusa pubblica. Grazie Mario, sì. E salutami. Grazie, però vorrei anche precisare, un'ultima precisazione, che il commissario Pecoraro ha ringraziato tutti per questi interventi, non soltanto della forestale, ma di tutti gli altri corpi che hanno partecipato, compreso gli operai. Questo risentendo la trasmissione lo puoi ascoltare tu stesso. Grazie ancora Saro e buona giornata, buona domenica, anche se non è cominciata bene. E io ringrazio il commissario superiore Roberto Pecoraro. Mi dispiace per la grande disponibilità e dell'opportunità che mi avete dato per chiarire alcune questioni che diciamo non piacciono al sindaco. Mi dispiace, va bene, mi faccia trasferire, che vuole che le dica, mi denunci, non lo so. Le carte parleranno. Vabbè. Grazie ancora comandante Pecoraro. Buongiorno a tutti. Cambiamo argomento, mi dispiace che non posso accompagnarla, cambiamo argomento, c'è con noi Cinzia Matassa. Questa sera ci sarà a Cefalù, in piazza Cristoforo Colombo, ci sarà in piazza Cristoforo Colombo la sagra del pesce azzurro, una sagra che si rinnova, perché si è fatta gli altri anni, anche se non in piazza Cristoforo Colombo, ora ritornerà questa sagra. Può parlarcene Cinzia? Sì, quest'anno dopo un po' di anni, credo nel 2006 fosse l'ultima edizione di cui che abbiamo curato noi nell'organizzazione. Sì, ecco così forse. Dicevo, quest'anno dal 2006... Se giro un po' la sedia perché... Bene, Riprendiamo noi la tradizione dell'organizzazione della sagra del pesce azzurro che abbiamo curato per tanti anni, già dagli anni 90, per quest'anno per problemi anche economici, poi è stata più volte interrotta, però abbiamo da quest'anno proprio abbiamo preso l'impegno di organizzarla annualmente. L'ultima settimana di settembre sarà quella che dedicheremo proprio alla sagra del pesce azzurro. Quest'anno la novità intanto è proprio il cambio di location, non siamo più nella sede storica della sagra, quindi via Vittorio Emanuele. Esatto, abbiamo fatto questo esperimento con la sagra delle cozze lo scorso anno e abbiamo ripetuto quest'anno di spostarci in piazza Cristoforo Colombo, che è più semplice da gestire nell'organizzazione, perché trovandosi in un posto in cui facilmente tutte le postazioni possono essere raggiunte per portare per rifornimenti del cibo, di tutto quello che serve, è più semplice e anche più si riesce a snellire meglio la situazione del traffico, perché ci siamo trovati nel passato tante volte a dover proprio quasi gestire un traffico di tanta gente che non riusciva nemmeno a incanalarsi per la distribuzione. Da stamattina e da ieri veramente che i nostri collaboratori già si adoperano per sistemare la piazza, la renderemo ancora più accogliente, speriamo che insomma la sagra abbia il successo che noi speriamo abbia anche quest'anno. Come si articolerà questa sagra? Ecco, cosa presenterete? Ci sono dei turisti che... Certo, che speriamo accorrano numerosi. Speriamo che vengano. Sì, ci sarà abbiamo predisposto 6 punti di distribuzione. In uno verranno distribuite delle bruschette con delle alici sott'olio di una salsa piccante. Ci saranno 2 postazioni invece in cui verrà distribuita la pasta, che saranno delle pennette con salsa al finocchietto e capone. E per la preparazione di questa salsa dobbiamo ringraziare lo chef Giuseppe Fiduccia, che ha curato proprio questo aspetto. Cinzia, è l'ora del pranzo, ci fai venire la fame? Sì, esatto. Ma stasera potremo assaggiare di tutto e poi naturalmente 2 postazioni con il pesce fritto. Ci saranno queste 80 casse di capone che abbiamo comprato, che verrà fritto e quindi distribuito. Naturalmente poi ci sarà anche una postazione con il vino, assaggeremo il vino dell'Abbazia Sant'Anastasia, l'olio che verrà utilizzato invece dei Fratelli Bonomo di San Mauro Castelverde, la pasta è la pasta Tomasello di Casteldaccia. Siamo rimasti, abbiamo voluto utilizzare tutte le risorse del nostro territorio. E come si svolgerà intanto? Ci sarà si acquisterà un ticket del costo di 5 euro che prevede 4 distribuzioni che poi potranno essere scelte da chi acquista, se assaggiare tutte e 4 le offerte insomma che vengono proposte, oppure fermarsi a quella che più piace. Siamo pronti, ecco. Invitiamo tutti ad essere presenti. Credo che organizza comunque oltre la nostra associazione, quindi l'associazione Santa Cecilia, l'associazione culturale musicale Santa Cecilia, in collaborazione con la Perito Ittica e il centro commerciale La Perla del Tirreno, di cui noi siamo anche qui siamo anche iscritti. E intanto in bocca al lupo e appuntamento per questa sera. Grazie, domenica ci vediamo questa sera dalle ore 19 in piazza Cristoforo Colombo. Esatto. Grazie. C'è anche Piero Vazzana. La passione dell'automobilismo ti accompagna sempre. O tu accompagni sempre l'automobilismo. È una cosa insita. insita le due cose. Avete in animo di organizzare la cronoscalata storica, sì. La quarta cronoscalata storica Cefalù Gibilman. Ecco, ce ne parli un pochettino di questa cronoscalata. Già sicuramente siamo nelle fasi finali di organizzazione. Poi la fase, il clou sarà proprio lo svolgimento della gara. E già stasera ci sarà la presentazione di quello che faremo la prossima settimana presso il Sea Palace al Lungomare. Approfondiremo qualche argomento. E in più mi premeva di dirti che ci saranno degli amici, Italo Piazza, Franco... Sì, Madre, Italo me ne ha già parlato. Che proietteranno delle fotografie, faranno vedere degli articoli, un po' di memorabilia, come si chiamano adesso queste cose, che in parte sono inediti, perché Italo si è impegnato a tirarli fuori dai suoi scaffali, o anche a cercarli, li ha cercati negli scaffali dell'azienda del turismo di Cefalù, e ci sono delle cose che anche ti riguardano, tra parentesi, perché tu hai conosciuto le prime edizioni. Dopodiché ci sono stato 18 anni, appunto, ho curato l'ufficio stampa dalla prima edizione, dello piccolo a tutti gli altri. E poi si passerà alla fase esecutiva, che inizierà per noi dell'organizzazione, diciamo, il venerdì pomeriggio, con le prime riunioni tecniche che ci saranno presso la sala dell'hotel, che l'hotel a Pescatore ci ha messo a disposizione, e il sabato ci saranno le verifiche antegare, le verifiche sportive, le verifiche tecniche lungo il molo del porto, zona del porto, perché chiaramente nella parte bassa del porto. Sì, perché a lungomare abbiamo avuto delle difficoltà anche con il comune si è messo a disposizione, e lì ci sono gli spazi, si è messo a disposizione, sì. E poi è un posto abbastanza caratteristico. Senti, piloti, macchine, volevo entrare nel merito. In altri, come io faccio parte presiedo il comitato promosport locale, che chiamiamo i Normanni. Poi l'esecuzione effettiva della gara sarà demandata a un'associazione di Colesano che si chiama Sicilia Racing. Loro hanno già i numeri, e credo che siamo intorno alla settantina di iscritti. Non vorrei dire cose non precise, però dovremmo essere lì. La gara si svolgerà solo la domenica, ribadisco, solo la domenica, a partire dalle circa alle 9 di mattina. Ci saranno prima le prove, poi ci sarà una sfilata di auto d'epoca che i ragazzi qui del circondario si sono presi la briga di fare, che andranno a finire a Gratteri, che ci ha dato una specie di appoggio morale il sindaco Muffoletto. Ci sarà questa sfilata, e poi subito dopo la sfilata ci saranno l'esecuzione delle vere e proprie prove cronometrate. Dopodiché si ritornerà giù, le macchine sfileranno in senso contrario al senso di marcia, e si ripartirà per la gara vera e propria. Dio, tutto questo discorso dovrebbe occupare la mattinata, diciamo, fino alle 2 circa della domenica. Volevo precisare che la gara prende inizio dal terzo chilometro, dopo il tornante chiamano dello Cippone, ecco, il chilometro dopo la grua. Molto più avanti. Quindi liberando completamente. Quindi la gara partirà dal terzo chilometro. Esatto, perfetto. 3.2 per essere precisi, e finirà davanti al portone dell'hotel quello che era l'hotel del soggiorno, non saprei definire che cos'è. La premiazione sarà a Gibilmanna, speriamo di poterla fare nella scalinata, d'accordo anche con i monaci di Gibilmanna, e quindi questa sarà un'edizione che chiamiamola sperimentale, perché ci siamo presi la briga di fare questa cosa che per me è tutta una cosa nuova, perché io sono dall'altro lato della barricata. Quindi ci stiamo provando, abbiamo trovato, devo dire, grandissima partecipazione, a cominciare a CRM che ci appoggerà nella diretta radio, a tutti gli operatori locali, veramente tanti, ho trovato tanta disponibilità, tanta amicizia, tanta, come dire, no, più che disponibilità, proprio afflato nei confronti di questa manifestazione, che è rimasta molto attaccata al territorio. E a proposito del territorio, volevo dire che in questo momento occupo una sedia che è piuttosto infuocata, che è quella che occupava il comandante Pecorani. Voglio esprimere il mio ringraziamento a tutte quelle che sono le forze di ordine pubblico, quindi a cominciare la forestale, e in prima persona anche a Saro Lapunzina, che ci ha messo l'anima in tutto questo, in tutta questa operazione, chiamiamola di spegnimento. Io non saprei, dico, tutte queste polemiche. Sarebbe opportuno, secondo me, parlo adesso da cittadino, dovrebbe essere, come dire, appianate nel più breve tempo possibile, perché non fanno bene a nessuno, né al comune e neanche agli organi dello Stato. Di sicuro la cosa sicura è questa, che il nostro territorio ha bisogno di essere curato non dopo l'incendio, ma prima dell'incendio. Dare la possibilità, come dicevi giustamente tu, che ti sentivo, dare la possibilità al piccolo proprietario terreno di poter amare di più il proprio terreno e pulirlo senza problemi. Io credo che queste leggi, e poi chiudiamo il discorso, che non c'entra niente con la nostra manifestazione, siano fatte forse a misura non nostra, forse a misura di qualche altro stato, che magari è uno stato estero, ma noi abbiamo sempre curato il nostro terreno personalmente, cercando di essere presenti d'estate e d'inverno, quindi cercare di agevolare questo, non di metterci uno contro l'altro, ecco. Certo. E un'ultima domanda, se sì. me lo consenti, Piero. Questa cefalù storica sì. è un preludio per la cefalù cronoscalata, quella che c'è stata per 18 anni, 20 anni, oppure è una pagina chiusa che non si aprirà più? Io questo sarei presuntuoso a dirti una cosa di questo genere. Di sicuro io mi occupo e corro, occupo il mio tempo libero anche qua con Roberto che è con me, per quanto riguarda le gare storiche. Non ho nessuna preclusione a dire che potrebbe essere una cosa interessante fare correre anche le vetture moderne. L'importante è che sia una manifestazione che abbia una continuità nel tempo, perché in altri, se no sarebbero degli sforzi inutili, stupidi, perché tutto questo discorso, ricordiamoci, nel nostro piccolo, penso che porterà un po' di beneficio nel territorio, anche perché no, i nostri amici albergatori, esercenti commerciali, i meccanici, sì, tutto questo. Quindi, un po' per tutto, non c'è dubbio. Quindi io ti aspetto stasera. Grazie al Sipalas. Piero Vazzana, grazie. Grazie a tutti, anche per questa cronoscalata autostorica Cefalù Birmanna che porta sempre il nome di Cefalù avanti, quindi è una cosa. Vorrei ringraziare anche Roberto Pecoraro, commissario superiore e comandante del distaccamento di Lascari, e vorrei ringraziare il sindaco Rosario Lapunzina per l'intervento che ha fatto. Vorrei ringraziare il dottor Ildebrando D'Angelo che ha parlato del trattamento IORT per l'asportazione dei tumori, l'avvocato Vito Punzi, presidente dell'Auser, nonché Cinzia Matassa che organizza per come Santa Cecilia, come organizzazione, associazione Santa Cecilia, la sagra del pesce azzurro insieme a Perito. E credo che è proprio tutto. Da Angelo Arduino e Mario Lombardo, una felice giornata ai nostri radioascoltatori, ai quali ricordo che questa trasmissione verrà replicata lunedì alle ore 13:15. Abbiamo trasmesso Qua e là tra una novità e l'altra.